America 24 di Mario Platero. Might lead to the government having the right to sterilize and kill Jews. I'm not saying that that might be the case. I'm saying that's the case. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Avete sentito Jon Stewart, uno dei grandi personaggi di Comedy Central, una delle trasmissioni di maggior successo, trasmissioni così vagamente comiche della televisione americana, è un finto newscaster televisivo, cioè un annunciatore, fa dei telegiornali finti in cui fa della satira sui politici americani. Ebbene, Jon Stewart, grandissimo personaggio, è stato anche uno dei conduttori dei premi Oscar, tanto è noto, ha annunciato di aver organizzato una marcia di 1 milione di persone, vuole convocare 1 milione di persone a Washington, una marcia anti-Glenn Beck, quindi la risposta democratica, tra virgolette, alla marcia dei Tea Parties organizzata da Glenn Beck e da Sarah Palin qualche tempo fa. Two men who can talk about any kind of subject without letting stuff get in the way. Watching your show, we know how you feel about politics, religion and art. Ma c'è già una risposta anche a Jon Stewart. La musichetta che avete sentito, la canzoncina, è di Steve Colbert, interpretata con David Ippolito, il quale anche lui ha convocato una marcia a Washington il 30 di ottobre. Una marcia però ispirata più da valori della destra. Il paradosso è che Colbert non è necessariamente un simpatizzante della Palin. Dunque ci sono molte ramificazioni. Questo scontro politico a pochi giorni dalle elezioni, perché le elezioni saranno poi ai primi di novembre, il 2 novembre per essere più precisi, vediamo che ci sono molti rivoli, molte ramificazioni. Between the Financial Product Safety Commission and our current regulatory structure. Elizabeth Warren ce l'ha fatta, l'annuncio è venuto venerdì scorso dal presidente Barack Obama, poi nel corso del fine settimana il presidente ha confermato, spiegato ulteriormente le ragioni della sua scelta, una scelta controversa. Elizabeth Warren è stata prescelta per guidare l'Agenzia per la protezione dei consumatori, uno dei tasselli che andava ancora completato nel contesto della riforma del sistema finanziario voluta dal presidente Barack Obama. La notizia è importante perché Elizabeth Warren è una donna piuttosto dura, non piace al settore bancario, ma soprattutto perché si inserisce in un contesto dialettico che riguarda la formulazione di una proposta globale per le nuove regole del sistema finanziario internazionale, che saranno poi discusse al Fondo Monetario e a Washington. E dunque, in una settimana in cui si comincia a parlare di multilateralismo, comincia questa settimana, domani cominceranno le riunioni per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, vorrei confrontarmi con due esperti italiani, due professori di diritto italiani che sono a New York alla NYU, dove hanno insegnato per un mesetto, hanno partecipato a dei seminari e dove hanno tenuto a partire da ieri un convegno proprio su confronto transatlantico, soprattutto nella gestione del diritto amministrativo e delle entità pubbliche. Il titolo di questo seminario, The New Public Law in parentesi Disorder, quindi siamo in ordine o siamo in disordine? Giriamo subito la domanda a Giulio Napolitano. Ma sicuramente c'è stata una rinascita del movimento e delle iniziative multilaterali e l'evento più importante, la scelta più importante è stata l'allargamento del G8 e l'instaurazione del G20 come governance principale del sistema economico. Quindi passi avanti importanti ci sono stati, ma gli stati rimangono ancora i decisori fondamentali. Quello che è stato molto importante però è che gli stati hanno cominciato a coordinare gli interventi e il G20 è stato il luogo di questo coordinamento. Nuove regole finanziarie, per ora gli Stati Uniti hanno passato un piano, il resto del mondo no. Lei crede che tra Washington, Fondo Monetario e Corea, G20, avremo finalmente un nuovo set di regole? Ma sul piano delle regole sostanziali, come quelle che si stanno definendo a Basilea, passi in avanti importanti sono stati fatti e questo processo io penso andrà andrà a buon fine. Molto complicata invece rimane la situazione sul piano istituzionale, cioè il fatto che le autorità di regolamentazione e di supervisione continuano e continueranno ad essere in futuro differenziate a livello nazionale, regionale come l'Europa e soprattutto frammentate. Quindi, tanto per parlare in termini pratici, non è logico che la Banca d'Italia mantenga dei poteri di vigilanza sulle sue banche, dovrebbero essere centralizzati a livello europeo, è questo che propone? Ma che ci siano dei terminali ultimi nazionali è inevitabile, perché soltanto queste autorità hanno il controllo, per così dire, sul territorio e i poteri sanzionatori. Però le regole e i criteri generali della vigilanza dovrebbero essere definiti in modo unitario in sede europea, possibilmente da un'unica autorità europea di vigilanza finanziaria. Passiamo alle questioni culturali. C'è stata una guerra transatlantica tra Italia e Stati Uniti per il recupero di beni culturali. Ecco, lei come l'ha vissuta, professor Casini? Di contenziosi ce ne sono stati diversi. Forse il più noto è quello del cratere Eufronio, che ha coinvolto direttamente il Metropolitan Museum di New York e che ha trovato, dopo lunghe battaglie legali, una conclusione in un accordo bilaterale tra il museo americano e il Ministero per i Beni Culturali italiano. Diciamo che questo episodio, così come altri, confermano i limiti della disciplina internazionale sulla circolazione illecita e sulla restituzione delle opere d'arte nonché dei reperti archeologici. Ecco, qual era il contenzioso nell'esempio che lei ha citato, italiano? Allora, l'opera appunto è un cratere molto noto che era stato portato negli Stati Uniti, però da quello che poi è emerso dalla vicenda è acquisito in qualche misura illegalmente dal direttore del museo, cioè comprato però senza preoccuparsi del fatto che l'opera era stata portata illecitamente dall'Italia negli Stati Uniti. E quindi da qui è iniziata una battaglia legale, perché l'Italia era ovviamente interessata a riavere il cratere, che però ovviamente incontrava le resistenze del museo. A forza di andare avanti, il risultato è stato poi raggiunto con la stipula di un accordo che rappresenta ad oggi di fatto l'unica reale possibilità per poi poter risolvere questioni analoghe. Ecco, l'accordo è stato raggiunto in che termini? In termini appunto di restituire il cratere all'Italia, però avendo in cambio, diciamo, anche delle altre opere, in modo da in qualche modo compensare il fatto che il museo stesse restituendo l'opera allo Stato italiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Radiohead hanno rivelato di aver ultimato alcune nuove canzoni e un gruppo, questo, che sta riflettendo ora su come pubblicarle. Il loro ultimo album, In Rainbow, era scaricabile su internet con offerta libera. Stanno ripensando di riproporre la stessa esperienza. E dunque, per la Free Music, dedichiamo ai Radiohead la canzone del giorno, No Surprises, non ci sono sorprese. È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.